Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Epilogo. Love is all you need. Era un assolato, tiepido mattino di fine aprile e già si poteva avvertire maggio spingere dal sottosuolo come una calda bolla impaziente di liberarsi nell'aria. La jeep si faceva strada in mezzo a campi e profumi di pini. La ragazza dal vestito a fiori al volante e il vecchio passeggero in giacca e cravatta accanto a lei guardavano silenziosamente scorrere il panorama. Il vecchio non riusciva a trovare una posizione comoda sul sedile. Con le dita allargava il colletto della camicia. I polpastrelli tamburellavano ovattati su ogni cosa si posassero. Si tormentava il nodo della cravatta. Ogni tanto la ragazza gli gettava un'occhiata comprensiva, un sorriso tranquillizzante, ma c'era in gioco il progetto di una vita. Aveva avuto l'idea del programma recupero quando era ancora giovane. Certo, nonostante i capelli bianchi, si sentiva tuttora un giovanotto, e anche se fino ad allora la ricerca del dato finale non aveva portato alcun frutto, l'entusiasmo e la speranza non lo avevano ancora abbandonato. Un anno dopo l'apocalisse, appena conseguita la sua terza laurea, decise di raccogliere ogni elemento che aveva a che fare con il senza nome, per dare vita a un santuario e raccogliere la rivelazione nella sua totalità. Rese pubblico il suo sogno, l'archivio, e fu presto raggiunto da altri che volevano partecipare in prima persona e rendersi utili. La progettazione e costruzione del palazzo non richiesero molto tempo. Il giovane vecchio aveva una chiara visione di come sarebbe dovuto essere. Ci vollero ancora alcuni anni per radunare tutti i sottili fili che lui si era lasciato dietro. Ma infine furono raccolti diversi yottabyte di dati, video, immagini, suoni. Ogni persona che era venuta in contatto con lui fu catalogata e memorizzata. Ogni traccia da lui lasciata fu cercata e trovata. Furono raccolti i capelli dai cuscini dove aveva dormito in Vaticano, frammenti di pelle morta, peli, scaglie di unghie. Dopo anni ogni reperto ebbe infine la sua teca. Studiarono i dati confluiti nell'archivio, analizzandoli e ricombinandoli in ogni modo possibile per individuare tutti i posti dove la presenza celeste sarebbe stata, se non certa, almeno plausibile. Tuttavia i filmati delle riunioni non offrivano molti indizi e ogni ricerca del perduto lume si concludeva nel nulla. L'Olimpo rimaneva celato. Passarono mesi, poi passarono anni. Quando dopo innumerevoli entusiasmi e altrettanti fallimenti i padri si erano quasi rassegnati, i figli decisero di adoperare una flottiglia di droni di ultima generazione per automatizzare la ricerca e spingersi fino alle zone più impervie. Suddivisero il globo in un fitto reticolo di percorsi e sguinzagliarono fra meridiani e paralleli migliaia di droni che da un'altezza di un centinaio di metri fotografavano in alta risoluzione ogni volto che incontravano lungo il loro percorso e lo confrontavano con l'immagine memorizzata dei vecchi discepoli. Si verificarono due falsi allarmi. Si trattava di una pittrice in Polinesia e di un boscaiolo in Siberia. Lei era stata selezionata a causa della particolare tinta dei capelli, la cui analisi spettroscopica si sovrapponeva perfettamente a quella di una giovane fedele della prima cerchia di apostoli. Con sommo disappunto scoprirono che la ragazza stava sperimentando ogni sfumatura cromatica, tingendosi i capelli, per trovare quella che la faceva sentire meglio. Quando la trovarono, era già arrivata a una sfumatura magenta. Il boscaiolo, invece, dall'analisi fisionomica e cinesica, pareva quello che suonava la batteria il tragico giorno del tragico evento, ma naturalmente fu un altro buco nell'acqua. Chi sarebbe potuto sopravvivere a quel disastro? Gli instancabili droni continuarono a percorrere la griglia, cacciatori dei fantasmi di un fantasma. Passò ancora del tempo prima che una dei milioni di immagini facesse scattare il sistema di riconoscimento facciale con una probabilità di esattezza del 98,4%. I dettagli dell'avvistamento arrivarono una mattina nel centro raccolta dell'archivio. L'aspetto interessante della segnalazione era che la foto era stata scattata in un posto alquanto inconsueto, un promontorio aspro e isolato, quasi interamente ricoperto da vegetazione sempreverde. Sembrava il luogo ideale per chi volesse vivere appartato. La ragazza aveva informato della notizia il direttore che, sebbene ormai vecchio, insistette per partire, incurante della fatica del viaggio, sicuro che dopo tanti anni il cielo aveva ascoltato la sua voce. Chiese alla ragazza, che gli faceva anche da infermiera, di accompagnarlo e partire il giorno stesso. Atterrati all'aeroporto più vicino, viaggiarono su un fuoristrada per qualche centinaio di chilometri, lasciandosi alle spalle le zone più popolate. Da ore ormai vedevano soltanto campi coltivati e distese di cereali, un panorama immobile tranne che per i robot agricoli indaffarati a mietere e ad ammassare il raccolto maturo. Dal terreno spuntavano a intervalli regolari le antenne dei sensori che analizzavano i parametri chimici del terreno e ne stabilivano le necessità nutritive. Anche se non potevano vederle, sapevano che miliardi di nanomacchine, come un esercito di insetti ubbidienti, stavano ripulendo il terreno dalle sostanze nocive, mentre altre loro nanosorelle sintetizzavano quelle nutrienti. Non c'era traccia umana. Del resto, ormai in ogni angolo del pianeta le abitazioni erano state costruite immerse nella natura. Non esistevano più gli agglomerati metropolitani, i formicai di cemento. Poi, da lontano, un'alta radura rocciosa e sopra di essa un bosco. Le coordinate e il GPS indicavano un punto proprio all'interno della incombente macchia verde. Si udivano gli stridii dei gabbiani che volavano sopra la cima. «Non mi ero resa conto di essere così vicina al mare». Il mare da una parte, campagna e boschi dall'altra. Chi potrebbe volere vivere lì, nel mezzo del niente? Mormorò il vecchio guardando la boscaglia. Entrarono cauti nella penombra verde trafitta dai bagliori del sole. Era difficile camminare a causa dei grovigli di sterpi, rami contorti, radici nodose che li facevano incespicare. Ma riuscirono a risalire all'altura fino a un altopiano che bordeggiava il costone. Aggirarono un fianco fino ad arrivare a una radura colma del profumo di bassi cespugli di menta selvatica. Alcune mucche che stavano pascolando interruppero il pasto per un istante, fissandoli con biasimo indolente. Si fermarono per riposare. Il vecchio con la cravatta chiese alla ragazza il binocolo. Ispezionò con cura il paesaggio. Un tenue solco di terra fra il verde dell'erba strisciava verso un gruppo di betulle, una traccia lasciata da chi percorreva di frequente quella zona. Presero per quella via guardandosi intorno. Al loro passaggio alcuni picchi iniziarono a martellare i tronchi degli alberi. Il sentiero si allargava, rossiccio. Il bosco diradava. La ragazza picchiettò leggermente sulla spalla dell'uomo. «Guarda!» indicò un campicello recintato dove tre figure erano impegnate a raccogliere qualcosa dal terreno. Il vecchio osservò a lungo, richiamò sullo schermo del binocolo l'immagine del sospetto individuato dal drone, la sovrappose alla figura della persona che stava osservando, poi annuì. Non riesco a distinguere bene i volti, ma ho visto i filmati milioni di volte. Lui è sicuramente uno degli apostoli, quello che ha parlato con i giornalisti. Impossibile confondere il naso. Si aggiustò il nodo della cravatta, si spolverò la giacca con un paio di manate e, trattenendosi dal mettersi a correre, si diresse verso il gruppetto al lavoro, seguito dalla ragazza. Sia lodato il senza nome. Esordì con un sorriso e le mani giunte avanti a sé. Lode sia al suo non nome, rispose senza fretta una voce maschile da sotto il cappuccio immacolato. Stava picchiettando con una zappa il terreno per smuovere le radici di alcune piante che le altre due figure chine e incappucciate raccoglievano e riponevano in un cesto di vimini. Il vecchio estrasse dal taschino della giacca una tessera di plastica nera. «Mi permetta di presentarmi», disse porgendola. L'incappucciato lo sbirciò con malcelata curiosità, poi infilò la zappa nel terreno e prese fra due dita il rettangolo nero che, emesso un sommesso bip, mostrò la foto del vecchio con giacca e cravatta in versione più elegante e più giovane. Una scritta attraversò il piccolo schermo. «Dottor, professor, Salvatore Dimonio, direttore generale, archivio universale unico della parola del senza nome». L'immagine di una piramide a tre lati ripresa dall'alto prende il posto del viso del vecchio. Tre triangoli di liscio metallo giallo, in apparenza oro, emergono da antiche guglie di pietra. Come da un aereo che cade in picchiata, l'inquadratura si tuffa verso l'entrata della piramide, si infila in un lungo corridoio fino a sbucare in un vasto ambiente centrale a pianta triangolare. Numerose porte si aprono su ogni parete, la telecamera ne varca una e ruota per mostrare che ciascuna delle tre pareti della stanza è uno schermo in tre dimensioni che riproduce un'immagine del senza nome. Poi si gira in alto, rivelando in trasparenza la struttura della piramide divisa in piani. Il vertice scintilla lontano di bagliori azzurrini. L'incappucciato guardò in viso l'intruso. Sembrava esitante nel continuare quella conversazione. Poi, con un sospiro che tradiva irritazione, domandò: «Come avete fatto a trovarci?» La ragazza rispose timida, con un sorriso: «Ci sono voluti anni». Il vecchio si aggiustò il nodo della cravatta e disse: «Decenni, in verità, ma non è nostra intenzione essere importuni». Si torse le mani. «E se siamo di disturbo ce ne andremo immediatamente». Lo sguardo implorante rivelava che si sarebbe più volentieri suicidato. «Ma non potevamo rinunciare. Siamo venuti qui per raccogliere la sua testimonianza». La ragazza aggiunse a bassa voce: «È necessaria per completare l'archivio e raccontare del giorno dell'addio». L'apostolo non rispose, ma la curiosità nei suoi occhi era evidente. «Comprendere il motivo del suo sacrificio sarà il suggello finale alla gloria del senza nome», concluse lei in un soffio imbarazzato. «Ah, vorreste parlargli, ma l'arcangelo non è abituato a ricevere visite». «Ce ne rendiamo conto», intervenne sollecito il vecchio, «ma siamo sicuri che una volta saputo lo scopo della nostra visita, accetterà di incontrarci. Dopodiché non avremo mai più necessità di venire a distrarlo dal suo ritiro». Il vecchio pareva un bambino che implorava le caramelle. «Anna», disse Acqua di Cane dopo aver osservato a lungo qualcosa di invisibile ai suoi piedi. «Sì», disse la donna più alta. «Per favore», fece un cenno con la testa in direzione del bosco. Anna annuì e si avviò. «Siamo molto fortunati a poter incontrare anche voi», proseguì il vecchio fissando i riccioli che uscivano dal cappuccio della donna rimasta. «Gli apostoli che erano con lui fin dall'inizio della rinascita». Lei lo interruppe preoccupata. «Non avrete mica microfoni o registratori o robe del genere, vero? Lui evita l'elettricità come la peste da quel giorno», disse pulendosi le mani sporche di terra sul grembiule. «Abbiamo i cellulari, ma li lasciamo qui se necessario. Sarà un normale colloquio, viso a viso». «Grazie», disse lei con una triste espressione buffa. «Se sapeste come ci fa dannare per la musica!» Una risata esplose calda sotto i boccoli rossi. «Non può mica stare senza, però non vuole vedere altoparlanti. Come urla! Abbiamo dovuto farli mettere lontano, laggiù, dopo le siepi. Ogni volta che ha voglia di sentire qualcosa, qualcuno di noi va a fare partire le canzoni. È fatto così. Capita spesso che non dorme e magari ci viene a svegliare perché vuole ascoltare. Non finì la frase. Anna stava tornando verso di loro. L'ho visto rientrare con tutto l'armamentario, disse ammiccando. Il vecchio e la ragazza si scambiarono un'occhiata interrogativa. Ok, proviamo. L'apostolo sembrava ottimista. Di solito torna di buon umore quando è andato a pescare. Se accetta di parlarvi e, capite, vi sembra... Si tirò giù il cappuccio, svelando in tutta la sua imponenza l'appendice olfattiva e si passò una mano sul cranio pelato. Il fatto è che abbiamo tutti una certa età. La scala di lastre di pietra conduceva a una sporgenza della roccia, un vasto spiazzo erboso in cui occhieggiava l'apertura di una caverna, un lungo tavolo di pietra e sedie avvolte da edera. Una multicolore colonia felina soggiornava tra sbadigli e leccate di pelo su un ampio tappeto iridato. L'arcangelo era indaffarato attorno a un enorme drago di roccia. Fischiettava mentre radunava sulla coda del dragone ingredienti e condimenti. Le fauci ardevano di un fuoco brillante. Tre pesci aspettavano di essere accompagnati al liquido paglierino della bottiglia posata nel cestello del ghiaccio lì accanto. «Sto diventando bravino come pescatore», disse al suono dei passi, attizzando le braci. «In fondo basta pensare come un pesce. I pensieri dei pesci non sono affatto complicati». Si girò e li fissò uno per uno negli occhi con curiosità. «E voi? I vostri pensieri sono complicati? Non vedo branchie». Il vecchio e la ragazza non seppero articolare una parola. Trovarsi davanti al numero due non era come trovarsi al cospetto del senza nome, ma faceva comunque tremare le gambe. «Non temete, la pesca è stata fortunata. Ho già qui il mio pranzo». L'arcangelo sorrideva, ironico. «Parlate pure». Il vecchio accennò a un gesto di riverenza chinando il capo. Si schiarì la voce, poi, tenendo lo sguardo basso e con voce leggermente impastata, iniziò. «Mio signore, siamo costretti a disturbarla per una missione importante. Un compito necessario al fine di ricondurre all'unità il canone dottrinale del regno del senza nome. Lo scopo dell'archivio del senza nome è fungere da ricettacolo imparziale di ogni lascito divino per stabilire la retta interpretazione del verbo. Il corpus metafisico del nuovo Vangelo è ancora incompleto. Molteplici sono le interpretazioni degli eventi dell'Apocalisse e dunque l'eresia rischia di contaminare la purezza della riunione. Dobbiamo rimuovere le divergenze che stanno prendendo forma nei monasterion prima che qualche sacrilego...» L'arcangelo alzò una mano per interromperlo. «Avete molto da imparare dai pesci», disse con il suo antico ghigno beffardo. «Non so se sarò all'altezza di cotanta dottrina e certo non mi metterò a discutere di teologia. Ho sete, e forse anche i nostri ospiti. Anna, ci porti qualcosa da bere? Sei un angelo. Ora, ditemi, come posso aiutarvi esattamente?» «Mio signore, non c'è stato nessuno in grado di raccontare con precisione gli avvenimenti di quella tragica sera. Abbiamo sì alcune testimonianze frammentarie di sopravvissuti, ma erano troppo lontani per aver potuto osservare qualcosa di significativo. Ci sono tante cose di cui siamo ancora all'oscuro». «Il grande panico, intendi?» Mirko si rivolse verso la bocca del drago. Emergendo dalle possenti mandibole, i denti rosseggiavano di calore. Lo aiutò a soffocare un brivido. Rimestò pensieroso le braci, disponendole con cura a formare un basso vulcano. Prese il mantice e con un soffio ben calibrato il vulcano iniziò ad avvampare. Uno sbuffo nero uscì dalle narici del drago disperdendosi nell'aria. «Tutto quello che c'era da vedere lo avete già visto, in universo visione». Il tono della voce si fece più cupo. Io ho seguito il mio istinto, che era quello di allontanarmi più lontano e più in fretta che potevo, anche se il tempo aveva preso a correre in modo diverso. Avete una stanza anche per l'ultima riunione nel vostro archivio, vero? È l'ultima stanza del percorso. Si trova al vertice dell'archivio. Ma la gente non ci entra mai, rispose la ragazza. Anche io preferisco evitarla. È stato un giorno... Si interruppe, imbarazzata. Mirko appoggiò la schiena sul fianco panciuto del drago, intrecciò le mani dietro la schiena, chiuse gli occhi e si perse nei ricordi. Era sera, in realtà. Aveva appena iniziato a fare buio e poi tenebre, tenebre profonde. Avevo quell'odore orribile nel naso, lo sentivo ovunque, me lo trascinavo dietro. Tutti mi guardavano, dovevano vedermi in faccia qualcosa di terribile perché iniziavano a strillare e a disperarsi come se avessero perso ogni cosa cara, per sempre. Scosse la testa con un risolino. Tutti mi venivano addosso, gli zombie. Io offendevo i corpi come un maledetto spazzaneve. Credevo che volessero divorarmi. Solo quando mi sono voltato, visto che non ce l'avevano con me, volevano andare su, in cima. Volevano lui. Si camminavano addosso l'un l'altro. Era uno spettacolo affascinante. Una montagna di carne che cresceva sotto i miei occhi, sempre più alta. Si sentivano gli schiocchi delle ossa che si rompevano, ma non un lamento. Era quella la cosa più strana. Nessuno parlava o si lamentava. Si interruppe, turbato. Tutti hanno pensato che... Credevamo di aver perso anche lei, disse la ragazza, sperando di spezzare quel momento scomodo, ma l'arcangelo non diede segno di averla udita. Ho continuato a scendere più in fretta che potevo. Correvo, spingevo, cadevo, mi rialzavo e spingevo. Mi sono fermato solo quando ho visto il mare. C'erano delle barchette poco al largo. Ho nuotato fino alla prima che ho trovato. Ho tirato su l'ancora e ho iniziato a remare. Ero già al largo quando ho sentito un tuono. Il fianco della collina si era staccato. Era incredibile. Le persone e gli alberi venivano scagliati in aria, rotolavano giù per la collina. Stavolta si sentivano anche le urla. Ma non si fermavano. La mandria saliva su dalla parte rimasta intatta. Poi anche le luci della cattedrale ondeggiarono come lampioni al vento. Tutta la cima della collina ballava sotto i riflettori che sbandavano, come un gigantesco teatrino indonesiano, sapete? Anna era arrivata mentre Mirko stava parlando. Aveva preso un pesce e iniziato a pulirlo. Si fermò, si pulì le mani e ne appoggiò una sulla spalla dell'arcangelo e disse: «Noi tre siamo salvi, grazie a lui. Quando lo abbiamo visto allontanarsi, abbiamo avuto paura per lui, così lo abbiamo seguito. Se avessimo aspettato solo un minuto di più, saremmo stati sommersi anche noi. Andava troppo veloce, così lo perdemmo di vista, ma in realtà fu una fortuna, perché prendemmo la strada più breve per scendere dalla collina. Pensavamo che fosse quello che avrebbe fatto lui. Era ripida e piena di cose che graffiavano. Ci abbiamo lasciato un bel po' di pelle su quelle spine. Però non saliva tanta gente, non ancora. Quando siamo arrivati giù, il casino aumentava, non finivano più. Acqua di Cane ebbe l'idea di salire su una barca. Eravamo terrorizzati e lui era sparito. Ci allontanammo per trovare un posto più sicuro. Io ero lì che guardavo l'Apocalisse, disse l'arcangelo. La collina che si sgretolava come una torta di segatura. La cattedrale era sparita, la gente era sparita, le luci erano spente, c'era solo la luna che illuminava la collina. Era la prima volta che mi sembrava davvero un gigantesco teschio ghignante. E poi anche la collina è sparita, e tutto quello che vedevo era una nuvola di polvere che rotolava verso di me. È successo tutto così in fretta. Noi eravamo più al largo di lui quando lo abbiamo visto su quella barchetta. Gli urlavamo come pazzi, ma c'era troppo casino. Non ci sentiva. La polvere ci cadeva addosso e lui era troppo vicino. Non potevamo raggiungerlo in tempo. Lo abbiamo visto sparire. E tutta quella schifezza che poi veniva verso di noi. Ci siamo coperti il viso per aspettare che la nuvola passasse. E poi, dall'acqua. Io non riuscivo a respirare, non vedevo più niente. Se non mi avessero tirato su loro, ora starei parlando ai pesci, face to face, come dice la canzone. Oh, un salto evolutivo? Disse la ragazza con il vestito a fiori, guardandolo con occhi adoranti. Beh, sì, direi che si potrebbe considerare anche così, rispose l'arcangelo con un accenno di sorriso. A volte mi chiedo se non avessi dovuto restare lì anche io quella sera. Molto raramente, ma me lo sono chiesto. Quello che pesa a tutti noi figli del senza nome è che non capiamo il significato, sappiamo solo quello che tutti hanno visto. Lui era diverso quella sera. Sembrava felice, se posso permettermi di osare un paragone con la nostra condizione umana. Quando si è sollevato da terra, ha fiammeggiato, più brillante di una stella, poi, in un istante, non c'era più. Nessuno se lo aspettava. Abbiamo riguardato, analizzato, ricostruito i filmati in ogni modo, ma tutto quello che si riesce a distinguere dalle immagini è una marea di persone come risucchiate nel punto in cui un attimo prima si trovava il senza nome. Perché? Il vecchio rivolse i palmi delle mani in alto, come per afferrare una risposta che cade dal cielo. Mirko si rabbuiò, prese dal cestello del ghiaccio la bottiglia dal liquido paglierino. In fondo a sé sapeva quella a cui andava incontro, anche se non sapeva come. Forse è stato il suo modo per farci sentire in colpa. In effetti nessuno ha pensato a come si sentisse lui. È sempre stato solo. L'uomo e la ragazza si guardarono. Poi la ragazza chiese, ascoltando incredula le parole che le stavano uscendo dalla bocca. Cioè, sarebbe stato una specie di sacrificio? Drago! Avrebbe incenerito il mondo prima di farlo! L'arcangelo svuotò il suo bicchiere in un sorso. Poi, mentre lo riempiva nuovamente, gli uscì una risatina amara. Un tempo ci avrei sputato nel tè, ma pare debba evitare i derivati dell'alcol. Il destino, miei cari, anche quando ci illudiamo di costruirlo, è quel vecchio brigante che costruisce noi. Se solo potessimo essere in grado di volere davvero quello che vogliamo. Drago? Sussurrò la ragazza nell'orecchio del vecchio. Chi è? Il vecchio fece un cenno imbarazzato e con gli occhi le trasmise un «Ma che ne so io?» «Scopriva sempre cose che nessun altro vedeva!» L'arcangelo considerava il passato. «Eppure le avevamo sotto gli occhi, non le vedevamo, ciechi!» «Chissà cosa ha scoperto ora!» Concluse dopo una pausa che pareva di sentire i denti del tempo che si stavano sgranocchiando un secondo appresso all'altro. Anna finì di innaffiare i pesci con una pioggerella di spezie che Mirko aveva raccolto lungo i suoi pellegrinaggi. Li adagiò con elegante simmetria in un vassoio di porcellana dai bordi dorati e lo lasciò accanto al fuoco e a un paniere colmo di ortaggi tagliati a metà. Il vecchio sembrò rilassarsi a quella scena e in un tono di voce diverso, più familiare, domandò «Le manca?» Mirko lo folgorò con un'occhiata truce da sopra la spalla. Per un attimo l'uomo sbarrò gli occhi. Il cipiglio dell'arcangelo ti fa sempre sentire sull'orlo di un baratro. «Mi manca la magia di quei tempi», disse quello sguardo terribile volgendosi verso il vassoio. Preso un coltello, iniziò a incidere geometriche linee diagonali incrociate sul dorso dei pesci. L'arcangelo stava preparando il pranzo. L'uomo e la ragazza lo osservavano. Il viso era ancora giovanile, la pelle liscia, ma da dietro le spalle curve, la lunga chioma canuta, i movimenti cauti e controllati, tutto apparteneva a un anziano signore con dei ricordi forse troppo insistenti. «Come quella volta, dietro il muro!» proruppe Mirko brandendo in alto la lama e facendo trasalire gli ospiti. «Se non ce lo mostrava lui, non l'avremmo mai scoperta! La chiesa, sapete? Quella che ora è aperta per tutti!» Con la mano indicò il ricordo improvviso. «Il senza nome ha mostrato all'intera umanità la potenza della sua chiesa», annuì l'uomo fissando la mano protesa. «È stato un privilegio averlo tra noi». L'arcangelo aveva ripreso a tagliare i pesci. Sì, trovava quello che per gli altri era solo leggenda, o forse neanche ancora leggenda, quando eravamo ancora una grande famiglia, tanto tempo fa ormai. «Le ossa, anche quelle le ha trovate lui, diceva che lo chiamavano. E l'antico potere, è merito suo, solo lui ci aveva creduto». «Abbiamo ancora i suoi insegnamenti», disse il vecchio. «Io ero un bambino, ma ricordo benissimo tutte le riunioni, parola per parola». Mirko sogghignò. «Sì, abbiamo fatto davvero un buon lavoro». Sistemò i pesci morti sulla griglia rovente e, fissando le braci purpuree, mormorò: «Ma ormai non c'è più bisogno di un vecchio sogno. I suoi atomi sono sicuramente più felici ora. Mangiate con noi?» Avete ascoltato Reunion, un romanzo letto dall'autore Dario Vergari.